sono due chiamate e due, sono rientrato alle 11:30 perché stavo lavorando, lo so, non puoi dire, no? Cespugliando, ho lasciato il telefono a casa, appena sono rientrato ti ho richiamato e non mi ha risposto, cavolo di bugnetta. Vabbè, tu comunque puoi dire quello che vuoi, non sono a remote ma sto usando il 7004, il 7004, con la M800 attualmente, non dell'Oxin, quello che tu ben conosci, la radio LC 7004, senti che splendore. Bella radio cra, bella radio, bella, bella, bella, bella, pulita, chiara, perfetta, perfetta. Solo che c'è una cosa di differenza, che Salvatore sa usare bene il computer e tu no, solo ancora lì la differenza. Va bene, dai, sono battute, cra. Vi saluto a tutti, dai, sono andato a salutarvi, buongiorno a tutti. Salvatore di mestiere fa quello, io di mestiere faccio altro, capito? Salvatore conosce il computer, però non conosce il mio lavoro, è un lavoro diverso. Io il computer lo uso, per me può rimanere anche spento, guarda, no, non mi interessa proprio, a me interessa fare esperimenti di questo genere. Comunque devo avviare anch'io la registrazione del 1000 perché ce l'ha, ci ho provato e non ha giunto preso un accidente, va bene. Giulio, questo è l'IC 7004 della ICOM, che non ho mai usato in AM, mentre il 1000 l'ho usato. Questo è il microfono, non è l'SM20, ma è l'Adonis AM808, che Massimiliano conosce. Com'è? Allora, intanto ti dico subito, e te l'ho detto altre volte, che quello è quello che piace a me, prima di tutto, no? E poi ti dico un'altra cosa, tra tutte le radio che hai usato, nel King Voodoo, per me questa è più bella la radio, poi il USB Ultra attualmente è perfettissima, malissima, malissima, malissima, malissima, lo dico anche con l'eco. Questa è una cosa che piace a me, oh qua, già lo sai, tra le volte già la tempo fa, per almeno 6 mesi fa. Ti ricordi? Comunque c'era la cattura che mi sembra di Elio, e quando andai tu qua, che io ho sentito bassissimo, ma sicuramente era lui. Mi prendi qua. Sì, ok, mi è sembrato Elio, vabbè, no, beh, questa io non l'ho mai usata, so che ti piace tantissimo, il 7004, perché c'è un display grandissimo, però abbiamo provato l'FT1000 in AM, questo non l'ho mai provato, siccome già da ieri stavo iniziando a provare un po' di microfoni che ho, come il 908 provato sul 140, adesso questo che c'è il connettore ICOM a due uscite, ho staccato l'SM20 e ho inserito questo. I watt sono 40, perché più di 40 non era, e al massimo i picchi sono un po' positivi, ma non so se da voi sono positivi, comunque va bene così. Ok, poi Salvatore mi dici se hai trovato qualcosa dell'FT1000. Avanti Elio, sei tu. Ok, ciao Elio, buongiorno, ben sentito. Allora, microfono per Salvatore e poi vai per Marco. Salvatore, dimmi se hai trovato qualcosa, almeno dimmi solo se, perché il procedimento l'ho capito, dimmi solo se devo schiacciare il MOX praticamente dell'inserimento PTT o se devo lasciarlo disinserito per registrare. Allora, buongiorno a tutti, ciao Elio. Allora, tastierino DVS2 che permette di memorizzare messaggi da poter trasmettere in automatico e che permette di registrare le informazioni in direzione e di trasmettere le stesse. Far risentire individualo. Sì, stavo parlando sotto Giulio con... sì, sicuramente sei troppo alto per Massimiliano, stacca solo il processore o Giulio, perché non toccare la regolazione, perché va bene così, stacca solo il processore, se no non mi buggete più qui un chitarrario. Allora, mi hai detto VS... Tastierino DVS2, individualo. E ce l'ho davanti. Ok, allora dice tastierino DVS2 che permette di memorizzare messaggi da poter trasmettere in automatico e che permette di registrare le modulazioni in ricezione e di ritrasmettere le stesse, molto utile per far risentire i corrispondenti. Eccolo qua, perfetto, ecco, quindi io quello lì non lo inserivo, inserivo spot, rec e basta. Ok, dai, adesso me lo provo e poi vediamo cosa succede. Marco, vai tu, riprendi e vai per Giulio dopo. Sì, ti confermo che la modulazione è molto molto bella anche di questo apparato, con microfono Adonis mi pare. Comunque è gran figata questo di far sentire, poter riascoltare la propria modulazione senza le distorsioni dovute a un microfono. Ok, io rimando per Giulio, dai, avanti. Ok, ciao Marco, intanto mi sembra che ti ho salutato, comunque ti risaluto nuovamente. Sì, e adesso ho tolto il processore, ho massimiliare, dunque gli ordini sono quelli, non lo do più quel potenziometro, anche quando spolgo la radio non ci passo vicino a quel potenziometro, lo lascio così e stacco solo il processore quando ci siete amici vicini, in modo che non mi dicano che sto strappando. Avanti Massimiliano, dimmi come mi senti adesso senza il processore. Attenzione, Giulio, tu il processore lo puoi lasciare inserito, però cerca magari di non parlarci molto vicino al microfono. Buongiorno a tutti comunque. Non parlare molto vicino al microfono, vediamo un po', attacco il processore, però c'è pure che eri troppo vicino al microfono, vai. Ma ci vedi anche tu stai strappando però, eh. Io sto strappando, io sono alla stessa lunghezza del braccio come lo uso sempre. Ti sento un po' impastato, forse come l'hai appena accesa. Prova Giulio, perché qua sei fortissimo, prova Giulio a reinserire il processore. Adesso mi sono anche allontanato molto, ho inserito il processore e mi sono allontanato moltissimo, ma quando riesco ad arrivarci al microfono con tutto il braccio, addirittura anche con la spugna impastato. Dunque più lontano di così non potrei farlo, bisognerebbe che allora mi prendessi una bacchetta per poter schiacciare il PTT. Come adesso Massimiliano? Inserito il processore, non toccare il Mickey Gain, metti l'impedenza a 500 ohm. Ragazzi, vi saluto, vabbè Giulio, ma Elio, ciao Elio, prova Giulio. Ecco qua, adesso ho cambiato l'impedenza, adesso è a 500 ohm. Ciao Elio, salutoni, ben ascoltato, se ne stai andando? Spero che non te ne stia andando perché magari ci stiamo trascurando un pochino. In quel caso scusaci, Elio. Avanti, qua. Per me va benissimo anche così. Massimiliano, ha migliorato qualcosa di da te con l'impedenza 500? Un'altra gubba. Così per me è perfettissima. Ok, quindi in vicinanza va bene così. In lontananza va bene lo stesso. Marco? L'intelligibilità è aumentata tantissimo, adesso è chiara, Reco Aro. Forte, va bene così com'è a 500? Puoi aumentare anche leggermente, adesso te la puoi aumentare. No, vedi storce, non deve andare più di uno al Mickey Game, va bene così. Quindi da te Marco, aspetta Massimiliano, da te Marco mi hai detto? chiara, proprio chiara, intelligibilità perfetta. Però se lui a 500 ohm va bene, vuol dire che di base ha regolato qualcosa troppo alto. No, è che lui c'ha molti acuti purtroppo, c'ha una modulazione con tantissimi acuti, la sua voce è proprio acuta, forte, e quindi lo manda in distorsione, perciò con l'impedenza a 500 ohm recuperiamo un pochino più di bassi e diminuiamo gli alti, per capirci. Salvatore, da te come va Giulio? Guarda, così è perfetto. Giulio ha praticamente le stesse tonalità medio-alte mie. Se io vado di mic, la voce inizia a diventare, non dico stridula, però è giusto per rendere l'idea. Va male, perché è troppo ricca di alti. Quindi Giulio, per me sei ok. Ok Salvatore, allora ascolta Massimiliano, facciamo questa la prova. Io adesso mi sono riavvicinato come lo poc'anzi praticamente sul comodino, ho il microfono e poi ci ho messo anche il gomito per appoggiarmi, perché sinceramente rimango molto più comodo così, no? E dimmi com'è adesso per te, o Massimiliano, per il modo va benissimo o in questa maniera, dimmi adesso com'è, visto che mi hai detto che era bassa come radio. Avanti Massimiliano. Adesso che ti sei avvicinato è perfetta, oh Giulio, perfetta, sai cosa vuol dire perfetta? Cioè tu nella radio non è che devi stare scomodo a parlare, tu devi appoggiare, cioè devi parlare come parli tranquillamente. Adesso siamo anche molto vicini e la radio ti ascolto perfettamente bene, sai cosa vuol dire bene? Ok, grazie media. Allora vuol dire che la lascerò così. Per adesso vediamo un po', perché adesso che mi sono avvicinato voglio sapere il parere anche degli altri amici. Avanti qua, adesso che mi sono avvicinato con questa impedenza qua, come ha cambiato qualcosa oppure è rimasta buona lo stesso la radio? Aspetta, qua. Aspetta un secondo, che c'è un cavo di bugnetta giù. Giulio, dimmi un'altra cosa, guarda se sta strappando questa radio. No, io ti sento chiaro, ti sento, sinceramente ti sento chiaro. Fortissimo sì, questo sì, ma solo perché siamo vicino, ma non sento nessuno strappo però, Allora dire che c'è un gabbo di bugnetta del grado da parte su 7004. Dai qua, prendi il microfono che. E poi io vi saluto cordialmente, vi auguro buon pranzo, ci sentiamo stasera a 5 in Cile, dai. Aspetto il finalino e poi me ne vado a pranzo. Vai, riprendi Claudio, aperto il microfono. Guarda, quando tu dici di buttarci un 7004, io vuol dire che ti posso dire che non ti do manco il capo di alimentazione per questi 80 che c'hai, capito? Lasciamelo scoprire, né? Io non lo so come funziona. Adesso ho messo il filtro a 2004 e ti ascolto più largo, e questo c'ha i filtri, non è un 430, è un 680, è un 740, è un 440. Se avevo il filtro stretto e l'ho messo largo, adesso questa è in trasmissione, 10K, questo è 7, questo è 15, ok, a 1500, perfetto. Adesso ti ascolto benissimo, non c'è problema, vai a mangiare e gettaditi 2,80, avanti Marco. Ma poi se non hai compreso che ora il capo di alimentazione me lo compro, capito? Me lo compro, capo di bugnetta, dai, vi saluto a tutti, ciao ragazzi. Vabbè, comprati il capo di alimentazione del 7004, allora, è troppo buono in altro gomodino, poi quando lo demolisco ti regalo lo display, anche la radio la devo, anche lo display lo devo regalare a Giulio, a te ti posso regalare i dappi, avanti Marco. Ciao, ci sentiamo le prossime, dai. No, io qua lo sentivo abbastanza bene, però voci di fondo, rumori di fondo, tutto lì. No, ma ho sbagliato io che avevo il filtro per l'SSB su 7004, capito? Siccome lui lo sa che io mi posso permettere di scherzare con lui, no? E allora gli ho detto così, mi ravvini, faccio in gomma anche il 680, ragazzi, sempre vendici in gomma, hai gettato 2,80. Avanti Salvatore. ehi, eccomi qua. E comunque in termini di pulizia, quindi proprio di pulizia di audio, quando aveva attaccato il processore, Giulio si sentiva proprio pulito, come se fosse una persona a fianco. Ma dico qualcosa, ciao Salvatore, e dico anche una cosa, che a livello di 440 questo è giovanotto. Vai Cocca, vai Cocca, e fatti portare dal maestro, vai Cocca, vai. Ce lo so che a livello, quello lì, ce ne sono tre a Sassari, mi c'è questo 430 col prefinale da 50 watt, il 440 di Giulio e il 680 tuo. Però ricordati sempre che sono usciti sempre dalla porta di via Guramalfa, a Mentandio, hai compreso, Gabbo di Bugnetta. Ma non ho preso che sia il capo di Bugnetta, vero? Portante ultra 150 watt e modulate 100 quasi 80, capo di Bugnetta, vi saluto, ciao! Dimmi Luca che è uno dei migliori, diciamo, uno dei pochi, 140, diglielo chi è Luca, che usciva bene bravamente, quello ce l'avevo io, dimmi Luca, Massimiliano, dimmi Luca! Ma sono fatto vedere 180, non 140, un po' di Dio! Ma lui ha detto 40, era un signor apparecchio, usciva benissimo. Tu conta anche vuole avere più 4, era una bomba. Anche quello lì ci aveva il prefinale da 50 watt, quello che hai venduto, quello che è venduto a quel ragazzo di Olbia. Anche quello era, l'avevo fatto per me. Però il più riuscito di tutti, delle radio che ho avuto io, quelle che attualmente sono state venute a Sassari da me, e quella che ha Giulio, perché prima di darla a Franco, quella che ha Giulio, il 440 che ha Giulio, a parte il lavoro che è stato fatto da Carlo CH23 di Chiaramonte, che me l'ha fatto lui, come mi ha fatto il 430, come mi ha fatto il 680 che va lì su Gabbo di Bugnetta, mentre invece col 140 che avevi tu l'avevo fatto io personalmente, dopo che ho imparato quello che mi ha insegnato Carlo. Però quello che c'ha Giulio, prima di darlo a Franco, ripeto, l'ho mandato da Carlo Bianconi tramite Sandro di Porto Torres, che è un suo carissimo amico, e me l'ha tutto revisionato, nel senso che ha allineato tutto il VCO, ha allineato tutto il PLL, ha cambiato tutti i condensatori che erano già in perdita, è stata fatta tutta la taratura MFM, SSB, insomma, ci ho speso un po' di soldini, infatti l'avevo venduto 50 euro in più a Franco, questo è il quanto, perciò quello è l'unico che è il più nuovo di tutti, di quello che ho venduto io. Il 680 di Massimiliano c'è un po' di anni, comunque era stato fatto bene, andava benissimo, adesso ultimamente è stata fatta una revisione un po' generale anche a quello, l'ho fatta io, un po' di pulizia, e quindi vanno bene. Comunque le radio finché funzionano vanno bene. Quello che c'ha Marco invece, che era il mio lo stesso, perché io l'ho dato, c'è stato un giretto un po' qui qua, come dice qualcuno, anche quello non ha il prefinale da 50 watt, comunque è una radio che va molto bene, perché è stato fatto un lavoro diverso, anziché cambiare il prefinale, è stata aggiunta della roba sulla parte del microprocessore. Va bene, detto ciò, cambio a chi tocca, avanti. Giulio, per curiosità, me la fai un passaggio nuovamente senza il processore? Sì, prendo il microfono a 500 ohm, adesso lo stacco, adesso aspetta, ecco qua, l'ho staccato, ho salvato, e qua, poi non mi hai risposto, che avvicinandomi col microfono a 500 ohm non mi hai detto se è troppo vicino o meno, avevo chiesto quello, avanti Salvatore. Quando lo stacchi la pulizia, è ovvio che bisogna aumentare il volume lato di chi ti ascolta per sentirti un po' più forte, però la pulizia è indubbia quando si toglie il processore, vero Ozio Claudio? A ti piace te? A me non mi piace Salvatore, così devo essere sincero, la radio è troppo bassa, se toglie il processore devo aumentare il microfono, così è bassissima, io sono vicino a lui e la radio, devo essere sincero, così non mi piace di ballucca. Sì, è vero, troppo bassa. No, ma va bene col processore inserito e l'impedenza 50K, capito? Questa radio così va bene. Adesso sono praticamente quasi attaccato al microfono. Vai Massimiliano. Sì, così aumentata leggermente e poi giù. Se tu stacchi il processore devi mettere l'impedenza, la devi cambiare del microfono, tutto lì. Hai capito? Perché la radio sì così aumenta, però non è che te lo puoi mangiare il microfono, non devi attaccarci la bocca proprio. Se tu stacchi il processore le cambi l'impedenza del microfono e la radio va bene. Come la sto avvisando prima era troppo bassa. Siamo a 2 chilometri, uno dall'altro, gira a gira, devo sollevare il volume per ascoltarti, hai capito? Tutto lì. Ok, hai detto questo, vale, vi saluto con buon pranzo a tutti, buona giornata, ciao. No, aspetta un attimino, scusa un attimo, adesso ho rimesso, a 50 ohm ho rimesso il microfono, Massimiliano, dimmi com'è adesso per te. 50. Dai, scusami se ti trattengo ancora sì. Secondo, vai. Ecco, così la radio va bene. Senta, il processore con l'impedenza cambiata 50, così la radio è perfetta. Capito? Va bene così, per me che sono vicino. Poi, Giulio, giustamente, ognuno ti ascolta in diverso modo, però, per mio parere personale, siamo anche molto vicini, per me così è perfetta la radio. Poi, se vuoi tenere il processore, le cambi l'impedenza, con l'impedenza 500 ohm, ecco tutto lì. Va bene, dai, faccio riprendere sul capo il mio di Claudio e io vi saluto cordialmente. Comunque in questo passaggio Giulio sei perfetto. Sì, ma vedo i brettesi tu. Vai, dice a me, vai, mettilo com'era prima, 500 kilo ohm. Processore inserito, non lo toccare più, fai come ti dico io, a futtidini, e lui non capisce un accidente. Salvatore poi è abituato a parlare. Che cretino. Vabbè, tanto stiamo facendo le prove, no? Che problemi ci sono? Stiamo facendo le prove, dunque. Va bene così, dai. Adesso, ma adesso ho fatto le prove. Così impari, Salvatore. Di tutte queste prove. Riprendi, Salvatore. No, faccio la prova. Salvatore con Marco, con Marco. Una prova a fare assieme. Perché segnale meno che uguale. Provate, vai. Aspetta, che sto ancora ridendo. Che cretino. Che cretino. Oh Clarco, non puoi mi dicevi che c'è la voce da sacrestia. Come c'è Walter? Tu lo sai, io sono un bastardo, mentre fuori, quindi peggio per te, così impari. Santa tu. Oh Lu, che cosa devo fare? Provate assieme tu con Marco, vediamo un po', perché segnale è uguale. E che cosa devo provare a fare? Boh, io sto anche uscendo con i minimi sindacali, molto, molto minimi. No, allora, io adesso ho 20 watt, vorrei mettere i watt uguali a Salvatore, avanti. Allora, ti dico subito che il mio picco è di 5 watt, come picco, Ossia, con il fischio arrivo a 8 watt. Portante volta? Portante volta 4. Allora, ecco, portante muta 4 watt, picchi sono a buh, 7 watt mi dice, più o meno, dai. Vediamo un po', Luca, vedi un po'. Ciucciù. No, Salvatore è più forte, l'ha attenuato proprio a 0-0. Sì. Quasi 1, perché Salvatore sale da 1 quasi 2, dai, 2,5. Guarda, fai adesso la prova. Ora sono, quindi portante muta 4, sale a 8, la tonalità più bassa. No, passa Salvatore qua. Sì, vabbè, ma siamo a un tiro di schioppo tutti e tre, o Lu. poi io comunque sono forse un po' più alto rispetto a Marco, c'è anche quella differenza. Molto campanilista, capito? Oh, e dunque mi piace la mia gente, avanti. No, no, non sto dicendo quello, è che quando a volte io sento che breccano, non li sentite, e c'è uno d'Alghero, quello non lo sente, quell'altro non lo sente, c'è un altro da capito? Quindi a me prova dentro Sassari, io dentro Sassari esco bene lo stesso, è forte lo stesso, però rispetto a tutti voi, dico tutti voi in generale, è una ricezione superiore, quindi mi interessa quello, è una trasmissione sicuramente. Poi se Marco mi passa da Luca o Salvatore mi passa Luca, a me proprio non mi fare caldo nel freddo, assolutamente queste cose non ci tengo, io non ci ho mai tenuto, capito? Mi interessa sentire tutti quelli che entrano in radio da qualsiasi punto si trovino, del nord o sud di Sardegna, l'importante è che io li senta e loro mi sentano. Questo è il nesso di quello che stavo dicendo, Giulio, per carità, anche a me mi interessa chiacchierare con le persone di Sassari, non me ne affitto nulla di quelle che sono in provincia di Olbia o in provincia di... non mi interessa niente, però quando chiamano è chiaro che qualcuno deve pur rispondere, no? Molto bene, avanti a chi tocca. Ah, comunque io da dentro la radio, quindi usando solo il menu che ho a disposizione nella radio, io non ho la possibilità di rimandare in play il QSO come ce l'hai tu, capito? Almeno vedendo quello che c'è scritto in quella pagina. Ecco perché ho dovuto organizzarmi con un software esterno. Esatto, infatti il mio, quando tu mi hai detto di fare quella prova, io ho provato a mettere il chiavetto sul computer, non registra, mentre invece registra la radio, capito? Registra e ti ascolti, ho capito, sì, quello è diverso, mentre il 7004 invece c'ha il sistema come c'ha il 7008, quello sì, il 7004 lo fa, mentre il 1000 invece no. Ok, va bene, Marco, avanti. Volevo dire a Salvatore, io sono in via Nizza, però sono penalizzato da 50 metri di 213 RG. E il cazzo di 50 metri? No, 50 metri non ce li ho io. Io ne avrò ad arrivare all'antenna, saranno 25, non di più. Siamo uguali allora, Marco, 48 metri e 50 centimetri ne ho io. Mentre quando ero al nono piano ne avevo 12 metri. Eia, naturalmente magari se non sono 50 saranno 45, ne ho tenuto un po' di più in modo da far arrivare il computer anche dall'altra parte della stanza, sai, quando puliamo da una parte, l'altra volta ho spostato tutto dalla parte opposta della stanza, mi viene comodo un po' così. Va bene, dai, comunque bella ondulazione con la radio. Quale? Questo 7004? Caspita, la più bella, no, non te la stavo prendendo con la radio, la più bella per me, poi ognuno ha i suoi gusti. A te rispetto a Marco piace anche la radio, però perché l'hai vista. È vero, mi ha attratto quella radio, è veramente bella, mi piace un sacco, molto molto molto molto bella, veramente. E vabbè, dai, comunque, dai, vi devo lasciare, mia moglie mi ha chiamato per il pranzo, è già l'1:30, dunque sì, va a tavola qua. Ok, ciao Claudio, grazie per la regolazione che mi hai suggerito. Ciao Salvatore, grazie a te anche per il QSO e a Marco e agli altri che sono in ascolto, sicuramente qualcuno ci sarà. Salutare a tutti per me QRT, dopo il vostro finalino, chiaramente, come solitamente faccio, e poi vado a pranzare. Riprendi pure Salvatore, vai. Sì, K Giulio, altrettante, grazie. Grazie. E buona domenica delle palme a tutti. A tutti. Ma Massimiliano c'è ancora, Massimiliano? Lascialo perdere, mamma mia, rabbia, dove se ne è andato? Scusa Salvatore, scusa qua, ormai vieni i bambini con le crocette qua stamattina, ogni tanto il campanello, brin, brin, brin. Vabbè, sono bambini, giustamente bisogna sopportarli, ci mancherebbe. Ciao ancora a tutti, continuo ad ascoltare il vostro finalino e poi chiudo. Ok, riprendi pure Marco. Eia, no, meno male che qui non sono passati con le crocette, se no gli avrei cosa farne. vabbè, però bisogna prenderli, io ho già preso stamattina, ho preso a Santa Maria Cuinas, e c'era proprio la benedizione, ma lo sono arrivato io alle 8, c'era la chiesa aperta. In macchina, ok, va bene, d'accordo. Sì, questo è un esperimento che ho fatto, perché nell'arco degli anni io sposai, forse sono stato uno dei primi a fare le prove tra microfoni ICOM con Kenwood e Kenwood con ICOM. C'è da dire questo, che i microfoni della Kenwood non tutti vanno bene agli ICOM, ad esempio l'MC60 rimane, aspetta, metterlo, ecco qua, l'MC60 rimane leggermente più, molto corposa e un po' stridula come modulazione. L'MC60 sul quindi microfono Kenwood sul radio ICOM, mentre l'SM20, i microfoni della Adonis, l'808, il 1208 e così via, vanno molto bene invece, vanno molto bene. L'unico microfono che va bene della Kenwood sul radio ICOM è l'MC80 e l'MC85, mentre l'MC60 è troppo grossa, grossolana come modulazione, non mi piace neanche a me. Mentre invece l'abbinamento MC50 col 7004, che è questo, va benissimo, benissimo, perché c'è il compressore inserito, non c'è il processore 7004, c'è il compressore, quindi ancora più forte, e il microfono che dà paura, c'è un selettore del microfonico che dà paura, io ce l'ho in banda laterale, lo tengo a mezzogiorno, proprio come banda laterale, mentre in AM ce l'ho esattamente quasi a zero, a uno scarso, per farti capire Marco. Ehi, sì, bello, bello, poi tu hai possibilità di giostrarti, mi pare che hai gli adattatori in modo da adattare qualsiasi microfono su qualsiasi radio, sì. Ok, no, per il fatto delle crocette, non per dissacrare, ma io so che non sono benedette quelle che portano qua. So anche dove le rubano, nel palazzo di Marco Mini. E poi ci sono le palme, loro prendono, fregano, si fanno le crocette e dicono che sono benedette, in realtà non lo sono. No, no, beh, quella che ho preso io stamattina, perché vado proprio di vicino a fare una lettura di un contattore, erano proprio dentro la chiesa, capito? Erano proprio dentro la chiesa. Va bene. Allora, microfono per Luca, se ci sei ancora, se non riprendi tu Salvatore. Prima aveva breccato Gianni, mezz'ora fa, poi gli ha squillato il telefono e non so se si è rientrato e mi ascolto. Non so, non so. E a me, me. Luca. E a me. Ciao Luca, benta. Buongiorno a tutti. Ho visto che state andando tutti a pranzare. Ti già mangiato? Ehi, ha già pranzato qua. Questo è lo stesso microfono, Luca, che ho usato ieri facendo quella prova sul 430. Adesso lo sto usando sull'IC7004 della ICOM. Com'è? Meglio di quella di ieri o peggio? No, va bene. Si assomigliano un po' tutte quelle modulazioni qua. Però non mi aspettavo che quella radio uscisse così bene. E qua. Solitamente sono 3 o 4 le radio che possono uscire bene qua, ma a quanto pare ce n'è qualcuna in più. Beh, questa è una semi-offesa, Tutti quelli che hanno provato, allora io intanto sono stato il primo, questo è un mio testimone natalino che si assente della 3x9, ma io sono stato il primo a fare andare l'850 in AM, ok? E ho scoperto come doveva andare, tant'è vero che quello che ha Antonio gode, la regolazione che è stata fatta all'interno è stata fatta da Massimiliano Archimede, radioamatore, perché l'ha scoperta lui. Lui mi ha detto come fare il mio, io me lo sono fatto per me. Automaticamente lui poi ha preso la radio di Massimiliano e quindi ce l'ha l'850, riesce molto bene in AM, però prima l'850 non saliva più di 30 watt, ok? E praticamente andava subito in distorsione proprio di brutto in AM, anche perché il processore dell'850 in AM non agisce solo in modo laterale. Allora c'è una modifica interna che si deve fare senza assolutamente toccare niente alla radio, ma è praticamente c'è un lavoretto sulla parte del microprocessore, perché quella è digitale, della scheda del microprocessore, quello digitale, quindi non è che sollevi la LC col trimmer, c'è da fare un lavoro lì, c'è da inserire una resistenza, un condensatore e un transistor proprio su quella scheda, con tanto di modifica proprio dalla Kenwood, e in AM scoppietta, va benissimo. Questo 7004, che tutti quelli che l'hanno provato, tipo Walter e tipo altra gente, fanno cagare, questo 7004 non è stato modificato assolutamente, perché non si tocca, questa è tutta digitale, tutta scheda, quindi diventerebbe veramente un bordello. Però c'è un trimmerino molto molto nascosto che si vede proprio sullo schema, ingrandendo lo schema, dove a fianco al microprocessore della scheda stessa c'è scritto LC, però assieme al trimmerino a fianco c'è scritto LC AM. Quindi io sono andato ad aprire leggermente, perché era sicuramente chiuso del tutto, leggermente questo trimmerino dove c'è scritto LCAM, perché ce li ha tutti. Tu immaginate che c'hai watt separati banda per banda, e Salvatore c'ha un ICOM, quindi lo sa. Allora si tira su i watt dei semitri, si tira su i watt dei VHF, si tirano su i watt delle HF, e c'ha tutte le regolazioni banda per banda, capito? Quindi non è difficile. Io, siccome non l'avevo mai provato in AM, ho visto che c'era questa cosa da poter reagire, l'ho tirata leggermente su e c'ho il Mickey Green che praticamente ce l'ho a, cosa ti posso dire, quasi a zero, a uno, capito? Quindi che è una cosa incredibile. Tieni conto che io non ho una radio di Yaesio, Kenwood va bene, ma Yaesio, ICOM, che posso usare tranquillamente in AM a questi livelli, come livelli della Kenwood, perché spinge, se io ti 1706 della ICOM, che è un quadribanda, esce uguale, preciso identico a questo con l'SM20, non cambia assolutamente niente, capito? Vero Dio Salvatore, ci sei rimasto male, capito? Quando ti ho detto che c'è la voce tipo Dio Giovannino Piuri quando si metteva a chiamare in cantiere dal nono piano, non lo sentiva nessuno, allora ci aveva fatto un megafono. No, io nel frattempo ho aperto ciò che rimaneva di questa asta microfonica Trust e per tenerlo fermo lo sto fascettando a una pietra. Cazzo, non voi visto. Divertente la cosa, è proprio, fa proprio ridere questa cosa. Aspetta che lo fascetto. Allora, tu c'hai il pedale, giusto? Tu c'hai il pedale. Se vieni io ti do un'asta, bellissima, cromata, nuova, mai usata, col microfono attaccato, quindi l'asta già col connettore microfonico, direttamente da tavolo. Oh, ma è senza microfono. Il microfono è già testato, c'è il microfono testato, capito? C'è il microfono già attaccato, quindi l'asta compresa con il microfono, cioè c'è la capsula col microfono attaccato, molto molto bella, dove va attaccata al tavolo, capito? C'è praticamente il rotolo dove tu le metti, tre vite e lui rimane fermo, e ci sono i fili per collegare al pedale, a un PTT, perché non ha il PTT, ok? Quell'asta lì, zio Claudio, ad un congresso a Milano, intanto cercavo di smontarla mentre c'era il congresso, finito il congresso, dove l'ho seduto io non c'era più l'asta. Buona questa. Che ladro, eh? Infatti, concludo, stai zitto, tu ce ladro, io l'ho presa per usarla, capito? Era una prova che stavo facendo. Infatti, un mio collega, quando mi ha visto uscire, e mettermi in tasca la forbice, cioè, ma cosa devi fare, bere e alizimiri? No, dopo te lo spiego. C'era il tastino, e c'è il tastino, no? nella base della scrivania dove io ho seduto, che praticamente quando ti davo la parola tu dovevi accendere questo pulsantino e entrare a funzione il microfono. Io quando pigliare cosa, agio annullato prima il microfono del pulsantino, e poi con la forbice, tac, e ho tirato via il cavo. Capito? E ne scendo, bella l'asta, intera, perfetta, col suo piantone. Non so se poi li hanno contatti. Beh, come minimo avranno notato l'assenza, anzi, devono aver detto, qui sicuramente non si è seduto nessuno perché manca l'asta. Sicuramente hanno detto così. Comunque non sto scherzando, Salvatore. Arrivo, è nuova, cromata, bellissima, c'è il... Tu vieni qua e te la prendi. E ti fai quel sistema lì fatto bene, no? Fatto bene. Visto che c'è il pedale, ti colleghi il PTT al pedale, perché sicuramente era collegato così, ci sarà stato qualche trasmettitore dove citava la vita. Non ha PTT, non ha niente, quindi era collegato a questa pulsantiera, lo vi accendevo, poi si vedrà. Quando vuoi, è qua, guarda, è bellissimo. Io avevo intenzione di inserirlo da qualche parte, però non l'ho mai fatto. È il tuo, vieni e te lo prendi, così elimini quelle baravanche che c'hai. Mi hanno chiamato, questa è una cosa che vi ho detto in confidenza, non andate a Milano adesso al Palazzo dei Congressi, dite guardate che Claudio Spalviero di Sassari si è rubato un microfono, fate bastardi, vado a mangiare, ci sentiamo dopo, Marco, non ridere, ti sto vedendo che stai ridendo, ti prendi. Magari di quale tipo Parlamento italiano che quando parli si accende la lucetta sul microfono. Oh cazzo, questo è professionale veramente. L'ho preso perché non avevo mai visto una cosa del genere. Ma bellissimo. Sai quei microfoni da studio? Una cosa già così. C'è un'asta da 50 cm, bella, lucida, il microfono è impeccabile, adesso si levano appena piazzati. Il cavo è addirittura quello schermato, bello, grigio. Fatto una favola. Oh, bello veramente. Beh, sicuramente allora farà una figura ben diversa rispetto alla pietra che ci ho messo io adesso. L'avevo appena finita di fascettare, oh clà. A pietre che ti prendano con il tirelattico, vado a mangiare. Eia, che abbiamo sentito tua moglie che ti ha già chiamato 3 volte. E anche io devo cambiarmi, dai. Buon proseguimento di domenica a tutti quanti, allora, ciao Cla. D'accordo, ci penso, passo a prendermela, dai. Così vediamo un pochettino se miglioro l'estetica, se non altro, di questo, del mio accrocco. Marco, vieni avanti. Passiamo la parola all'onorevole Sparviero. Va bene, dai, io adesso, voi mangiate, io mangio più tardi, adesso mi faccio il bagno. Voglio stare 2 ore immerso nell'acqua, mi voglio sciogliere nell'acqua. Ok, dai, anch'io vado. Ciao Claudio, ciao Salvatore, pochi c'era, Giulio se c'è ancora, tutti gli altri l'ascolto, dai. Stasera andiamo allo spi a fregare il microfono. Milazzo, la bocca di scandalo. Stasera tu, Marco, fai il filo alla cassiera, io gli ho estratto il microfono. Buon pugno atteso in cassa 2. Non gli vanno bene i microfoni, c'è quel basamento inferno bello, rettangolare, quello già va bene. Va bene, dai, ciao a tutti allora, Antonella, anch'io sto andando che mi devo fare il bagno. Mi ci addormento, sono nel bagno, va bene. Ehi, vabbè, io mi sto per svegliando invece. Sto cucinando adesso. Ciao Tomè. Ciao Salvatore Salutoni. Bellino. C'ho una pietra di quelle, sai quelle che si trovano sulla spiaggia, che quindi sono, diciamo, ovali e piatte in un lato. Mia figlia me l'aveva, siccome c'era la forma di un mouse, l'ha disegnata tutta quanta bianca e poi ha messo i tasti del mouse, li ha disegnati in cima e al centro ci ha messo anche la rotellina, lo scroll. Siccome c'era qua come sulla scrivania come fermacarte, allora ho usato questa, gli ho facettato il microfono di una cuffietta Trust che avevo, e praticamente mi è rimasta solo il braccetto del microfono, del resto è tutto rotto, e gliel'ho facettato e sto parlando con quello. Già va bene, no, io ho un porta microfono invece di karaoke, di quelli di plastica, c'è il tubicino, c'è la ficella con l'aggancio per inserire il microfono direttamente, figurati. Io adesso sono andata, avevo sceso giù in me, la mamma che lo usava per tirarlo in testa a qualcuno ogni tanto. Dolori. Adesso sto trasmettendo con il computer adesso, capito? Perché stavo prima facendo delle prove di registrazione dell'audio con questo software in modo tale da poterlo rimandare. Perché con la radio non... mentre la via radio può registrare in queste O, posso solo trasmettere però dei messaggi vocali, non stralci di QSO, quindi per far sentire l'audio al corrispondente dovevo adottare un altro sistema e mi sono intestardito a far funzionare questo remote control dell'Icon, l'RSBA1. Che oltre che controllare in remoto la radio permette anche di inviare in play un file audio. Cosa fitta, non ci va bene. Allora sei tranquillo, possiamo rubare col microfono o il computer che ti fa la bella equalizzazione. Sì, volendo sì. Ok, Antonè, ti saluto che ci stiamo preparando per andare a mangiare tutti quanti. Saluto e buon proseguimento, nel caso ci sentiamo più tardi. Marco, a te. Papà. Aspetta che mi sta parlando mamma. Ho detto, con questi microfoni ci si può fare il karaoke al baracchino, come Paoletto quando cantava "Non sono degno di te". Quello già è vero. Cavalava, cioè. Ciao Salvatore, ci sentiamo dopo. Andrà bene. Marco, ciao, saluto e buona domenica anche a te e a tutti quelli che stanno ascoltando. Ciao, sto staccando quel rifi per me. Kappa, ciao Salvatore, ci sentiamo, buona serata. Luca, mi cavo di raggiunta. Mi credo te ne facendo andato anche tu. C'è Antonello, è entrato, io vado a farmi il bagno adesso. Vuoi immergermi con la testa, poi mi addormento e mi leggete sul giornale. Che cazzo, già lo fai da fare. Scusa, è meglio che... Senti, qualcuno ce lo butti giù. Capito, devi stare già attento. Portami c'è un altro, eh? Ho detto, adesso gira gira, vado dallo spine, piglio un microfono a quella. Non è di quelli, cazzo, non è di quelli, non è di quello vino. È completamente diverso. Proprio non ne ha di niente, capito? Cioè il piantone che l'ha attaccato alla scrivania, il piantone, ed è comandato da una centralina sicuramente. Col il microfono, piantone e microfono, cioè flessibile col microfono già testato, capito? E ci ho capito già, boh, la cosa che l'hai potuto fregare, è difficile fregare la cosa del genere, non peraltro. Comunque, boh, i microfoni, i microfoni che ci sono lì nello spesso sono totalmente diversi, non lo puoi mai usare, perché è un casino, c'è quello il pulsantino e non va bene, me l'hanno regalato uno, una volta Mario di qui, di Mario Massa. Neanche la portata ci potevi mettere, perché era un casino. È sempre imbustato, se non è nuovo nuovo, mai usato, si vede che, ma sto parlando di anni fa, capito? E l'ho trovato e stavo mettendo a posto, mi sono ricordato di questo particolare, mi ha giovato due risate, capito? Perché poi assieme ai miei colleghi era un congresso di lavoro aziendale dove erano mandati tutti per fare un corso di aggiornamento. Da questo corso poi mi è nato questo congresso, mi ha detto che mi chiedo, no, sono detto scusi, e avevo chiesto la parola, ho detto, mi dà, sì, accenda lì, ha girato, prova, cazzo, che poi amplificato, tu mi servi? Già con che amplificato, cioè, quei microfoni sono sensibilissimi, sono. Sono andato alla regione ogni tanto, andiamo lì, dentro, ne fraiamo quei microfoni che c'hanno, quelli che si piegano a tipo di serpente. E così è tutto cromato, c'è l'altra tutta cromata, bellissimo, tutto cromato, non ha un graffio, è nuovo, tagliato direttamente da sotto, la scrivania c'hanno un metro e mezzo, qualcosa in più anche di cavo, capito? C'è la calza, tutto, e si può attaccare a un pedale, se non so dove ce l'ha già. E quindi per lui è fattibile fare una cosa del genere, capito? Io ne ho anche troppi microfoni. Va bene, dai, io vi lascio, io continuo a mangiare, ti ho sentito, sono entrato. Continuo a mangiare, ci sentiamo dopo. Un saluto a tutti circolarmente, circolare. E a dopo la che io sono guarda con la mia gemma che saltava dalla finestra, dalla padella alla finestra. Sentiamo dopo, ciao. Ciao a tutti. Ciao Marco, a dopo. Buon bagno. Ciao anche Luca. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo, ciao Marco. Ciao a tutti, ciao.